Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. E allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: il giorno dopo la firma dell'accordo per rinnovare i modelli contrattuali, firma che non ha visto però la partecipazione della CGIL, e questo sarà il nostro tema di apertura, nel senso che cercheremo di capire intanto i dettagli dell'accordo, le criticità sollevate da alcuni. Insomma, avremo un gruppo di ospiti esperti di relazioni industriali e diritto del lavoro, proprio per capire pro e contro, e soprattutto che cosa potrebbe portare questa riforma degli accordi del 93. L'abbiamo detto più volte, una riforma che ha l'obiettivo, tra le altre cose, di dare maggiore ruolo alla contrattazione cosiddetta di secondo livello, quella aziendale, e lasciare un ruolo di cornice e di quadro alla contrattazione nazionale. Ma ci sono anche altre novità: dall'inflazione programmata si passerà all'inflazione europea. Sappiamo che l'inflazione programmata, siccome la decide il governo, c'è sempre il sospetto e il rischio che il governo la fissi molto bassa, per poi dovrebbe essere riadeguata, ma insomma il rischio c'è, devo dire, con tutti i governi negli ultimi anni l'hanno fissata bene al di sotto di quelle che erano le previsioni. Quella dell'inflazione invece su base europea di Eurostat potrebbe essere un indicatore più realistico e soprattutto più immediato. Poi parleremo della borsa, che conosce un'altra giornata non cali superiori all'1,5%. Milano non è la peggiore oggi, perde l'1,20 il MIB e l'S&P MIB, perde l'1,1 Parigi, l'1,3 lo cede Francoforte, Londra meno 0,7, l'America perde l'1,4% sul Dow Jones, invariato il Nasdaq. Si segnala un euro sempre sotto quota 1,30, quindi relativamente debole rispetto alle quotazioni degli ultimi mesi, a 1,28, e una sterlina britannica che scivola nei confronti di tutte le valute, anche e soprattutto nei confronti del dollaro. Nei confronti dell'euro è a quota 93,6, quindi siamo sempre per un euro vale 93 pence, quasi 94 pence. I titoli in leggera ripresa oggi: Banco Popolare, che molto aveva ceduto nelle scorse settimane e nelle ultime sedute, più 2,26% in questo momento. Il 2,2 lo guadagna anche A2A, l'1,1 lo guadagna Prismia, nell'1,2 Tenaris, lo 0,80 l'Automatica, mezzo punto percentuale per Eni di rialzo, e anche per Intesa San Paolo. Chi cede di più invece: Fondiaria, meno 6,5, ed è sotto pressione Fondiaria da un po' di giorni. Seat, meno 6,2, Atlantia, meno 5,6, Italcementi, meno 5,5, L'Espresso, meno 5,2, Autogrill di nuovo in flessione, meno 4,8, Generali, meno 4,6, Fiat, meno 4,4, e a questo punto il titolo Fiat è sceso a 3,80 euro. Meno 4,2 Buzzi Unice, meno 4,2 anche la Popolare di Milano e il Monte dei Paschi. Il 3,80 lo perde Alleanza Assicurazioni. Già ci chiedete di Unicredito, oggi relativamente più tranquilla, ma intanto, per non sbagliarsi, perde un altro punto percentuale ed è sotto l'1,3, siamo a 1,25 euro per azione per il titolo Unicredito. 349-238-6666 per i vostri sms. Avremo anche un piccolo approfondimento sul mondo delle materie prime, non lo trattiamo da un po', dopo che l'anno scorso era stato uno dei temi principali, ossia le pressioni non solo sui prezzi delle materie prime energetiche, ma anche dei metalli non ferrosi e dei cereali. Oggi faremo un piccolo approfondimento su un settore importantissimo, visto che l'Italia è il secondo produttore in Europa di acciaio, e quindi acciaio, complessivamente come sta andando la domanda internazionale. Avremo infine anche un focus sulla Cina, perché dopo il dato sul PIL che è calato più di ogni attesa, insomma, in Cina c'è una cosa un po' strana, però se il PIL cresce meno del 7%, forse 6%, c'è paura della tenuta sociale. Noi che siamo abituati a PIL che crescono dell'1, 1,5, firmeremo subito un PIL al 7%, però il governo cinese ritiene che sotto quella soglia vi possa essere un problema di, ma addirittura di ordine pubblico, cioè di tenuta della società cinese, e sta correndo ai ripari. Ci sono molte cose da raccontare su questo fronte, perché come già anticipato, per la prima volta da anni, da decenni, vi è stato un travaso dalla città alla campagna e non più solo un saldo netto campagna verso la città, cioè alcuni sono rientrati, tornati a vivere in campagna, c'è chi non è tornato dalle ferie appunto perché mancano i posti di lavoro. Il PIL cala per la prima volta in maniera brusca e per la prima volta la Cina ha anche una grossa difficoltà nelle esportazioni e aumentano i disoccupati in Cina, cosa che anche questa non si vedeva da 10 anni. Le buone notizie oggi riguardano il petrolio, che è in calo e comunque si mantiene a $42 al barile, e l'Euribor, che è assieme al dato sull'inflazione direi la buona notizia di queste settimane. L'Euribor scende al 2,2%, il tasso che le banche utilizzano per prestarsi soldi e che dovrebbe essere poi il riferimento per capire come si muovono i mutui a tasso variabile, i prestiti a tasso variabile. Al 2,20 siamo ai minimi dall'ottobre del 2005, mentre l'inflazione, dicevo con una buona notizia, ne parleremo fra poco, perché l'inflazione continua a essere molto bassa e almeno questo, secondo molti economisti, dovrebbe permettere ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, al cosiddetto reddito fisso, di recuperare un po' di potere d'acquisto, perlomeno non perderlo, visto che l'inflazione appunto viaggia sotto il 2%. In questo modo si potrebbe realizzare una tenuta dei consumi, o perlomeno un calo dei consumi minore rispetto alle attese. È difficile in questi mesi trovare buone notizie, ma sicuramente che l'inflazione non morda, che il petrolio resti a $40, è un elemento positivo, anche se sappiamo che è dovuta alla recessione in corso. Le altre notizie in breve. Rapidamente, la Gran Bretagna ha dato oggi il dato sulla crescita dell'economia, anzi la non crescita dell'economia. Nel quarto trimestre la Gran Bretagna ha fatto un meno 1,5% come PIL, è il più grosso calo dal 1980 e ripeto, lo facciamo ogni giorno, più che le percentuali e i numeri sono i raffronti storici che ci aiutano a capire quanto pesante sia questa crisi nel caso specifico in Gran Bretagna, non dai tempi della Thatcher che non si vedeva un calo del genere nel PIL britannico. Tant'è che il cancelliere dello scacchiere britannico, ossia il ministro del tesoro, Alistair Darling, ha detto sta andando tutto nell'economia britannica peggio delle previsioni. Poi anche la Finlandia non se la passa bene, meno 2% il PIL finlandese quest'anno, la Spagna vede crollare l'occupazione. Il vice premier spagnolo la Maria Teresa de la Vega ha detto oggi il paese è nel momento peggiore della crisi. Insomma, i senza lavoro spagnoli sono tornati al 14% della popolazione, sono cresciuti di 1.280.000 solo nel 2008, una cifra spaventosa, tant'è che i disoccupati sono adesso più di 3 milioni in Spagna, 3.200.000. Dall'America l'appello di Obama, la situazione senza precedenti, il Congresso agisca rapidamente e trovi un accordo sul pacchetto di stimoli per l'economia che vale $825 miliardi. L'obiettivo, ha continuato Barack Obama, è arrivare all'approvazione di questo pacchetto entro metà febbraio. E la crisi colpisce anche Harley Davidson, il mitico marchio delle moto che, lo ricorderete, la scorsa estate ha comprato la nostra Augusta. Il gruppo Harley Davidson ha annunciato infatti il taglio di 1.100 posti di lavoro dopo aver chiuso il 2008 con i ricavi in calo. Ancora due notizie in breve dall'Italia. Le vendite al dettaglio in picchiata a novembre, meno 3%. Anche qui attenzione ai dati, perché i consumi, abbiamo fatto una puntata su questo, non sono messi così male nei generi di prima necessità, ma soprattutto anche in alcuni consumi in ristorazione, alimentari, laddove l'esborso non è così forte, si va a stringere la cinghia e a risparmiare sulle grandi spese, e quindi automobili, elettronica da consumo e tutto ciò che ha, anche se non è aumentato tanto, ha un impatto a livello assoluto molto forte. Infatti anche il dato di oggi vede gli alimentari calare poco, -1,3%, tra l'altro nei negozi gli hard discount vanno abbastanza bene e gli ipermercati tengono, anche i supermercati tengono, sono i negozi normali che calano molto, il -4,8%, e poi invece gli altri prodotti di consumo arretrano in maniera più vistosa, l'abbigliamento -4% come le calzature, la cosmetica -5%, i cellulari -4,5%, anche i giornali, libri e riviste -5%, elettrodomestici -4%. Allora, una buona notizia che non c'entra nulla con la crisi, però visto che spesso abbiamo parlato di mala sanità, del fatto che tre regioni da sole riescono ad avere il 70% dello sforamento sul bilancio della sanità ogni anno, c'è una buona notizia che arriva da Reggio Calabria. Perché? Perché l'ASL di Reggio Calabria, commissariata per infiltrazioni mafiose e adesso guidata da un generale dei carabinieri, ebbene lì sarà un caso, ma da quando non c'è più l'andrangheta dentro e gli amministratori corrotti e collusi con l'andrangheta, i costi dei servizi che la ASL offre si sono ridotti del 50%, e immagino che non abbia ridotto i servizi del 50%. Con debiti per 500 milioni di euro, la ASL di Reggio Calabria pagava prezzi folli per tutti i prodotti e servizi che erano ottenuti con appalti truccati. Abbiamo anche raccontato del sacchetto di plasma di sangue che costa a Reggio Calabria 4-5 volte più che a Torino o in Lombardia, e sangue sangue. Per un paio di cerotti da 20 euro si era arrivati a pagare 3.500 euro, questo lo dico agli ascoltatori che vivono al sud, che delle volte sono un po' scettici e dicono ma insomma il federalismo può portare a un danno al sud. Se il federalismo fiscale va a colpire questi sprechi, no, c'è un beneficio per lo Stato e anche per il sud. Insomma, se si pagano cerotti da 20 euro a 3.500 euro non si va da nessuna parte. Servivano 6 nuovi camici e ne hanno ordinati 2.800. immagino che forse un accordo con chi questi camici li vendeva ci fosse stato e qualche cosa sotto banco sia volata. Tra l'altro c'è già un precedente virtuoso, che è quello di Palermo, dove l'arrivo di un amministratore giudiziario ha ridotto del 90% il costo per la regione di alcuni servizi. Un attack incredibilmente a Palermo, immagino che la macchina sia la stessa, è scesa come costo da 128.000 euro a 9.000, ossia quanto costa più o meno nel centro-nord del paese. Un ciclo di terapia per tumore alla prostata è sceso da 136.000 a 8.000 euro, alla faccia degli sprechi. Allora, primo tema della puntata, la riforma del modello contrattuale. Oggi, tra l'altro, non ha firmato la CGIL il rinnovo del contratto per quello che riguarda la scuola e i ministeri, e sciopero il 13 febbraio assieme a FIOM. Per quello che riguarda la CGIL, confermato lo sciopero dei metalmeccanici, quindi il 13 febbraio, nel giorno in cui si commenta, si cerca di capire la portata dell'accordo raggiunto ieri con quasi tutti i sindacati tranne la CGIL. Siglato infatti ieri sera a Palazzo Chigi l'accordo quadro per la riforma del modello contrattuale, tutti hanno firmato Confindustria, CISL, UIL, non la CGIL. La nuova disciplina riguarderà sia il settore pubblico che quello privato, quindi maggior forza contratto aziendale e livello quadro e di cornice al contratto nazionale. Ascoltiamo in primo luogo questa scheda che ci ricorda i dettagli, i punti di questo accordo raggiunto con quasi tutti i sindacati. Cambia, dopo 16 anni, il modello contrattuale concordato da sindacati e imprenditori nel luglio del 93 sotto la regia dell'allora presidente del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi. Un modello che segnò l'addio definitivo al meccanismo della scala mobile e impostò la contrattazione tra imprese e lavoratori su due livelli. Il primo, rappresentato dal contratto collettivo di categoria, stipulato a livello nazionale da sindacati e organizzazioni imprenditoriali. Il secondo, che riguarda invece la singola azienda e i suoi dipendenti, con la facoltà di stabilire ulteriori aumenti in busta paga a fronte di miglioramenti della produttività. L'accordo raggiunto ieri sera conferma questa struttura a doppio livello, ma con due importanti novità. La durata del contratto sale da 2 a 3 anni e, soprattutto, il peso della contrattazione viene spostato dal primo al secondo livello, detassando premi e incentivi di produzione. Altra novità fondamentale è la sostituzione dell'inflazione programmata, ossia quel valore indicato anno per anno dal governo e che fa da riferimento per gli incrementi salariali del contratto nazionale. D'ora in poi, per stabilire gli aumenti, si utilizzerà il dato sull'inflazione elaborato da Eurostat, senza però conteggiare i prezzi dei beni energetici importati, tradizionalmente soggetti a forti oscillazioni. Basti pensare all'andamento di benzina e petrolio negli ultimi 12 mesi. La scelta del parametro da utilizzare è stato il maggior punto di attrito nel corso delle trattative. Secondo Confindustria, il ricorso ai dati Eurostat depurati dai prezzi energetici porterà in media nelle buste paga 2.500 euro in più in 3 anni. Di parere opposto la CGIL, che non ha firmato l'intesa e secondo cui gli stipendi subiranno una perdita media di 1.900 euro. Allora, questi i tratti principali di questo accordo e nel finale anche le differenti valutazioni tra Confindustria e CGIL. Ringrazio innanzitutto i nostri ospiti oggi per capire portata e novità di questo accordo e quindi da un lato il senatore del PD Pietro Ichino. Buonasera, senatore. Dall'altro il deputato del PD, del PDL Giuliano Cazzola, buonasera anche a lei, onorevole. Buonasera. E l'economista Tito Boeri, insegna economia del lavoro alla Bocconi di Milano, buonasera anche a lei, professore. Buonasera. Dunque, rapidissimamente le reazioni di ieri sera, il ministro, le dichiarazioni tarda serata quando l'accordo è stato firmato. Il ministro Sacconi, accordo storico per le relazioni industriali. Per la prima volta nei fatti si abbandona del tutto l'approccio conflittuale che ha caratterizzato largamente il nostro modello di relazioni industriali e si afferma, come ho detto prima, un modello di tipo cooperativo. Quindi credo non esagerato dire una novità storica. Così ministro Sacconi, la presidente degli industriali Emma Marcegaglia, andiamo avanti con coraggio, mi dispiace per la CGIL. Come sapete questa è una firma storica, era dal 1993 che non c'era l'accordo di tutte queste sigle, ci sono 25 sigle che hanno firmato, c'è sostanzialmente tutto il mondo dell'impresa, c'è tutto il mondo del sindacato, ovviamente tranne la CGIL. A noi questo dispiace. Come sapete noi abbiamo fatto, Alberto Bombassei, tutti noi abbiamo lavorato molto per cercare di avere un accordo con tutte le sigle sindacali e anche con la CGIL, abbiamo fatto di tutto, però alla fine siamo anche convinti che in questi momenti serve coraggio, bisogna andare avanti, bisogna fare quelle grandi riforme che al Paese servono e quindi siamo comunque convinti che questa è una riforma importante, ribadisco, è dal 93 che non si ritrovavano tutte insieme tutte le sigle del mondo dell'impresa e di tutto il sindacato tranne la CGIL. E poco fa, qualche minuto fa, da Massa Carrara, la presidente di Confindustria ha detto: auspico che la CGIL possa ripensare questa sua posizione. Per noi il tavolo rimane aperto. Il commento anche di Guglielmo Epifani ieri in serata. Il governo ha forzato, perché questa è la verità, in direzione di un accordo che sapeva non avrebbe avuto il consenso della CGIL. E nelle modalità scelte il contratto nazionale non sarà mai in grado di assicurare il recupero del potere d'acquisto rispetto all'inflazione reale. Allora, con i nostri ospiti partiamo proprio da quest'ultimo punto, perché nelle novità importanti, poi vedremo primo e secondo livello, si passa dall'inflazione programmata, quella che il governo stabilisce e che è sempre, lo dico, più, molto più bassa di quella reale, all'inflazione Eurostat. La Confindustria dice in questo modo: se arriverà a 2.500 euro in più in 3 anni, la CGIL dice no, non riuscirete a recuperare potere d'acquisto. Vorrei sentire su questo Tito Boeri e poi Pietro Ichino e Giuliano Cazzola. Prego, professor Boeri. Innanzitutto vorrei approfittare dell'opportunità per esprimere la mia solidarietà al professore, senatore e amico Pietro Ichino, che è stato oggi attaccato in un modo orrendo dai terroristi. E adesso ne parliamo, perché non la cosa non la sottovalutiamo, ci mancherebbe. Sulla questione, dunque, l'accordo in realtà non parla di, cioè non, il riferimento non è all'indice Eurostat, cerchiamo di essere precisi, si parla di un nuovo indice previsionale. Ecco, prima era programmatico, cioè c'era un impegno programmatico del governo delle parti a fissare un tasso di inflazione. Qui ci dovrebbe essere un soggetto terzo, che non si capisce chi sia, che deve definire un indice previsionale che è costruito sulla base dei dati Eurostat, depurati quindi dai prezzi energetici, dall'inflazione importata, ma c'è una previsione. Ecco, questo è un concetto arbitrario e poco trasparente, a mio giudizio, molto difficile. Chi sarà a fare questo e quali pressioni avrà su di lui? Saranno fortissime. Pensate anche, se siamo in un periodo in cui l'inflazione sta scendendo, da parte delle organizzazioni datoriali ci sarà una pressione per ritardare la conclusione dei contratti. Se invece l'inflazione sta salendo, saranno i sindacati a voler ritardare la firma dei contratti, perché si aspettano di portare a casa dei risultati migliori. A mio giudizio sarebbe stato molto meglio prendere come riferimento il tasso della BCE. I tassi di interesse della Banca Centrale Europea, dice lei? No, il tasso di inflazione. Ah, il tasso di inflazione della BCE. Certo. Su questo c'è un impegno di inflazione molto serio. Poi vabbè, ci sono altri aspetti della sì, cosa. Adesso arriviamo anche agli altri aspetti. Professor Ichino, in qualche modo Tito Boeri mi ha anticipato, però è chiaro che questo programma si occupa di tutto. Adesso arriviamo anche al suo commento sull'inflazione programmata. Oggi però è successa una cosa scandalosa da esecrare, adesso ve la faccio sentire, perché durante l'udienza a carico di 17 presunti appartenenti alle 9 BR a Milano, questo è capitato. Questa è guerra, quello è un massacratore di operai, quello lì, e tutti i suoi compagni che sono guerra. Queste sono le grida che lei ha ricevuto. Io le posso chiedere solo come si è sentito, poi parliamo anche dei nostri temi, perché insomma mi sembra incredibile che nel 2009, ancora quando si tocca il tema delle relazioni sindacali, si debba arrivare sempre a questi livelli, professore. Solo un grosso dispiacere, che nella mia veste, io oggi ero chiamato come testimone nel processo, ovviamente non potevo intavolare una discussione, parlare con queste persone, mi sarebbe tanto piaciuto, perché io in università mi è capitato spesso di incontrare delle contestazioni da parte di studenti, anche contestazioni vibrate, anche in qualche modo minacciose, ma è bastato che ci si sedesse e si cominciasse a discutere delle cose, perché i toni immediatamente si stemperassero e si cominciasse a ragionare. Ecco, purtroppo con queste persone non ne ho mai avuto l'occasione, spero prima o poi di avercela. Sono convinto che anche questi assurdi insulti, che non sono argomenti, verrebbero meno. Certo, oggi era uno spettacolo molto impressionante. Ma mi scusi, ma lei onestamente, al di là del desiderio intellettuale, pensa che si possa discutere con chi la definisce massacratore di operai? È chiaro che quello non è un argomento, ma io vorrei potergli chiedere conto di queste accuse, poter discutere con loro delle mie proposte in concreto. Io sono convinto che non le hanno mai neanche lette, la loro è una posizione così di principio, il tabù, chi tocca lo statuto dei lavoratori muore, non è un argomento, è un tabù, appunto, il ragionamento, credo, con chiunque, anche con la persona più estremista, si va sul concreto, si riesce a ragionare. Purtroppo con queste persone non ne ho mai avuto l'occasione, spero perché prima o poi questa occasione venga. Io glielo auguro, non ci credo molto, però non è facile. Ricordiamo che la frase "chi tocca lo studio del lavoratore muore", purtroppo in questo paese ha i nomi di Tarantelli, D'Antona e Biagi, per cui non stiamo parlando di così di teoria. 17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stiamo ragionando con Pietro Ichino, Tito Boeri, Gino Cazzola del contratto firmato ieri dai sindacati con la Confindustria, tranne la CGIL. Professor Ichino, moltissimi messaggi che sono arrivati al 349-238-6666 di solidarietà per quello che è successo oggi in tribunale. Ma veniamo alla domanda. Tito Boeri ha detto: questa inflazione su base europea, elaborata su Eurostat, non è molto chiara per capire quale sarà poi il rinnovo e dove si porrà il rinnovo contrattuale. Che nella applicazione di questo nuovo indice sorgeranno dei problemi, ma io francamente non vedo qui una questione cruciale, cioè è importante, ma questo poi si vedrà nei rinnovi dei contratti come questa clausola verrà interpretata e applicata. Vedo semmai un elemento di indeterminatezza che dovrà essere superato e sarà forse più difficile da superare nei rinnovi contrattuali per quel che riguarda il cosiddetto elemento retributivo di garanzia. Questo accordo interconfederale rinvia all'accordo di settore, al contratto nazionale di settore, per quella voce retributiva che scatterà laddove non ci sarà contratto aziendale sul premio di produzione. E invece questo è un punto molto importante, su cui tra l'altro non comprendo bene perché la CGIL non lo prenda in considerazione seriamente, perché se questo elemento retributivo di garanzia sarà strutturato bene, tra l'altro c'è una bella proposta di Tito Boeri e Pietro Garibaldi per strutturare questo elemento retributivo di garanzia in modo da dar vita a dei veri e propri premi di produzione aziendali anche là dove non scatta il contratto, la contrattazione. Ecco, quello è, per esempio, già consentirebbe di escludere che questo accordo porti a una riduzione del monte salari complessivamente contrattato. Chiaro. E poi direi che va sottolineato invece questo nuovo spazio al contratto aziendale, il diritto alla contrattazione aziendale sulle innovazioni, sugli aumenti di produttività. Questa è una novità molto importante e che è l'unica che può portare a aumenti seri di retribuzione, perché un contratto nazionale che vale per l'aziendina che produce viti o bulloni e l'azienda aerospaziale non potrà mai essere il contratto che porta robusti aumenti retributivi come nella maggior parte dei casi si possono ottenere invece in azienda scommettendo sull'innovazione. Ecco, questa possibilità di scommettere sull'innovazione è qualcosa che in questo accordo trova nuovi spazi. Ultimo punto, l'accordo rinvia a un successivo accordo entro 3 mesi sulla rappresentanza sindacale. E qui la CGIL ha una finestra per rientrare in gioco, perché questo accordo sulla rappresentanza, chi rappresenta chi, le regole per individuare il soggetto abilitato a negoziare a nome di tutti, questo è decisivo, è una svolta importantissima nel nostro sistema di relazioni industriali questo è un accordo che la CGIL potrebbe anche firmare senza aver firmato questo accordo interconfederale di ieri. Ecco che questo potrebbe riaprire i giochi e in un certo senso rasserenare l'ambiente. La mia speranza è che la CGIL non si lasci scappare questa occasione. Grazie professor Ichino, ho ancora una brevissima domanda per lei dopo, però vorrei sentire Giuliano Cazzola a questo punto sui due temi: l'inflazione a cui agganciare l'aumento retributivo e dall'altro quello che ricordava il professor Ichino o il senatore Ichino. C'è un modo per trovare degli aumenti in busta paga anche per quelle imprese, quelle aziende, o perché molto piccole, o perché non hanno, non riescono ad agganciare la produttività, una specie di calmieratore, di cuscinetto? C'è questo elemento a cui faceva riferimento il professor Ichino, che tra l'altro viene dalla contrattazione dei metalmeccanici, che va appunto a integrare la retribuzione prevista dei contratti nazionali laddove non si fa contrattazione aziendale. Io poi sono anche d'accordo con Ichino, e al quale ovviamente manifesto tutta la mia solidarietà per le vicende di oggi, col fatto che la CGIL ha possibilità di entrare, di rientrare nella trattativa su questa sfida della rappresentanza sindacale, che è appunto è una sfida aperta per i prossimi sei mesi. Per venire invece alla questione dell'inflazione, io vorrei ricordare che l'inflazione importata, cioè che dire sostanzialmente che un contratto nazionale deve essere agganciato all'inflazione reale, significa dire che bisogna ripristinare la scala mobile. Vero. Tra l'altro, io voglio ricordare, io sono vecchio e sono stato tanti anni sindacalista e che ha vissuto in regime di scala mobile, io voglio ricordare che le voci dei diversi panieri della scala mobile, che avevano a che fare con i prezzi del petrolio, nel pacchetto, nel paniere valevano la metà. Quindi nella sua storia il movimento sindacale ha sempre convissuto con questo elemento reale della cosiddetta inflazione importata, anche quando gli strumenti erano meno raffinati di oggi. Il protocollo del 1993 prevedeva appunto questa eccezione, no, dell'inflazione importata, e in questi anni, con l'eccezione dei metalmeccanici, questo credo che vada detto, i contratti si sono rinnovati senza scioperi. Cioè, noi abbiamo, con l'eccezione dei metalmeccanici e con qualche incidente di percorso qua e là, abbiamo avuto una situazione fisiologica dei rinnovi dei contratti, che sostanzialmente ha portato a una normalizzazione delle relazioni industriali, no? Per cui io credo appunto che al di là del fatto che l'elemento resta da definire, che si tratta di capire quale sarà l'autorità a cui fare riferimento, il modello a cui fare riferimento per prendere di mira la scala mobile. Tra l'altro va detto che con la scala mobile, l'inflazione, che con l'inflazione, col costo della vita, si è sempre giocato nei rinnovi contrattuali. Sì. Non è che sono sempre stati lì. Capito, però lei dice, insomma, si può trovare un sistema, però attenzione, perché se si estende o tira troppo il concetto che deve essere agganciata all'inflazione reale, torniamo alla scala mobile. Professor Boeri, rapidissimo, immagino che sia d'accordo con la sua proposta, non fosse altro quella che citava Ichino, non fosse altro che per coerenza, quindi una forma per dare la possibilità anche a quelle imprese piccole con una bassa o inesistente rappresentanza sindacale e che non leghino gli aumenti alla produttività di avere, diciamo, un cuscinetto. Vorrei però che mi rispondesse anche alla domanda, rapidissimo, se un contratto come questo senza la CGIL può poi essere realmente operativo. Sì, innanzitutto, legandomi alle cose che diceva Cazzola, sono molto d'accordo. Pensate che quest'anno, se si prendeva l'inflazione effettiva, avremmo dovuto adesso aumentare i salari del 3% e quindi condannare il nostro paese a vivere un periodo di inflazione quando in tutti i paesi c'è una riduzione dei prezzi. Sulla questione della garanzia, penso che non debba essere un incremento piatto, ma debba essere un incremento che è legato ai livelli di produttività delle singole aziende. L'obiettivo di questa riforma deve essere quello di stabilire un legame più stretto tra salari e produttività, quindi nelle imprese dove non si fa contrattazione si può comunque applicare una regola che permetta questo di essere. Questo è un po' il senso della nostra proposta. Terzo, lei mi chiedeva se si può fare, questo è un elemento critico. No, io credo che sia davvero un problema quello di aver firmato un accordo senza il sindacato più importante. Mi auguro, come diceva prima il professor Ichino, che questa riforma, questo accenno che c'è alla rappresentanza riporterà dentro la CGIL. In ogni caso si profila una situazione molto difficile in alcuni comparti, soprattutto rischiamo davvero di avere una situazione poco risolta, dove difficilmente si riesce a fare contrattazione. Quindi io spero che con questo discorso sulla rappresentanza la CGIL ritorni in gioco. Professor Ichino, anche per lei questa domanda, vi chiedo una risposta telegrafica: deve rientrare la CGIL per dare piena valore a questo contratto? La CGIL credo che faccia bene a rientrare in gioco, anche perché altrimenti la riforma della contrattazione avverrà nei fatti tutti, nel senso che in alcuni settori critici, a cominciare dal metalmeccanico, sarà molto difficile che senza regole il contratto collettivo nazionale venga rinnovato, e a quel punto il baricentro si sposterà bruscamente sulla contrattazione aziendale, ma a quel punto non sarà uno spostamento negoziato e con un diritto alla contrattazione, ma sarà regolato dai rapporti di forza e basta. Onorevole Cazzola, anche per lei l'ultima domanda. L'ultimo, sono convinto che le relazioni industriali hanno bisogno di camminare con un equilibrio che hanno sempre avuto, e mi auguro che le organizzazioni sindacali possano trovare un momento di confronto e di riappacificazione. Io voglio far notare un'ultima cosa, però nell'accordo c'è un elemento nuovo che io rigiudico assolutamente importante, che è quello delle deroghe, che il modo sostanzialmente per avvicinare il nostro modello di relazioni industriali a quello di altri paesi, per affrontare in termini corretti, credo, e anche consensuali e negoziati la questione dei tanti divari che noi abbiamo in questo paese. Grazie e di nuovo tutta la solidarietà anche di Radio 24 al senatore Ichino, grazie all'onorevole Cazzola, al professor Boeri. Allora, la borsa, vedo molti messaggi arrivare, adesso vedremo, come si diceva, c'è ancora la possibilità che la CGIL rientri quando si andrà a negoziare altri aspetti, la parte, diciamo così, perequativa nel secondo livello, e tra l'altro è arrivata anche la proposta, il nuovo invito di Emma Marcegaglia poco fa da Massa e Carrara. Il tavolo è ancora aperto se la CGIL vuole risedersi. Il primo contratto, il primo test per questa per le nuove regole sulla contrattazione collettiva arriverà visto che ce lo chiedete, a maggio, quando dovrà essere rinnovato il contratto di categoria dei 350.000 lavoratori del settore dell'industria alimentare, e quindi anche perché un'altra novità di questo contratto, di questo modello, come ricordava la nostra scheda, è che i contratti non si rinnovano più a 2 anni ma a 3 anni, anche perché sennò tempo di rinnovarli continuavano a scadere, li rinnovavi ed erano già da rinnovare visti i ritardi che venivano presi in fase di contrattazione. Comunque, i primi sono gli addetti all'industria alimentare, 350.000 persone a cui il 31 maggio scade il contratto, poi gli elettrici, poi gas e acqua, e poi anche il 31 dicembre 2009 i metalmeccanici, che sono 1,5 milioni di addetti. La borsa, Eleonora Micheli, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Alla fine ha recuperato molto Piazza Affari, perdeva 1,5 punti e ha chiuso in calo di solo 0,5 punti, e devo dire che anche le altre borse europee hanno un po' recuperato. Che è successo nel finale? Guarda, nel finale è migliorata nettamente Wall Street, il Nasdaq è arrivato a guadagnare praticamente l'1%, adesso in verità si sono di nuovo indeboliti gli indici americani. D'altra parte c'è stato questo scatto in avanti, visto che Barack Obama ha parlato e ha detto che si sta impegnando per far approvare le misure di stimolo entro all'economia. Metà febbraio. Esatto, e proprio dopo che ha parlato il presidente i mercati sono nettamente migliorati, evidentemente c'era bisogno di un segnale di speranza. È migliorata Wall Street e sono andate a ruota anche tutte le borse europee, che nel durante della seduta perdevano. Piazza Affari, ad esempio, il MIPTEL perdeva oltre il 3%. E sono migliorati soprattutto i bancari, se ho ben visto. Comunque il Banco Popolare alla fine chiude sopra i 4 euro, in rialzo del 3,7%, A2A più 3,5%, Prismian più 2,90, Lottomatica più 2,2, Terna più 1,7 come Intesa, l'1,6 lo ha guadagnato Tenaris, Eni più 1,3. E l'Espresso più 1,2, Snam più 0,9, ebbene anche Mediolanum e Telecom più 0,80, Finmeccanica e Mondadori 0,5 percentuale di rialzo. Male invece SEAT, Pagine Gialle meno 7,5, Italcementi meno 5,4, Generali meno 4,5, Atlantia pure, Fondiaria meno 4,2 come Fiat, che alla fine perde un altro 4%, Monte dei Paschi perde pure essa un 4%, Buzzi Unicem il 3,80, Popolare di Milano il 3,6%, come Alleanza, Autogrill meno 3,3, e chiudiamo con Impregilo meno 2,8%. Peggior titolo in assoluto, Investimenti e Sviluppo meno 15%, Miglior titolo Tiscali, più 10,8%. Partiamo da Tiscali. Che è successo, visto che ieri ha perso oltre i 15? Sì, non solo ieri, ma questa mattina penso le azioni erano state sospese per eccesso di ribasso. Poi repentinamente nel pomeriggio hanno iniziato a salire, hanno virato al rialzo, ma senza una ragione specifica. L'unica ragione è che hanno perso molti punti nei giorni precedenti, quindi evidentemente qualche investitore ritiene che le azioni abbiano raggiunto prezzi troppo scontati, anche se non la pensa allo stesso modo Citigroup, che proprio ieri ha indicato un target di prezzo molto più basso delle attuali quotazioni, pari a 0,45 euro. Di nuovo in flessione Fiat, tra l'altro vedo adesso il dato finale. In una settimana veramente nera per la Fiat, ha perso il 22% il titolo del lingotto rispetto al suo valore a inizio settimana, ha bruciato oltre 1 miliardo di capitalizzazione, 1 miliardo e 168 milioni di euro. È partito infatti venerdì scorso, aveva chiuso a 4,71 euro e siamo a 3,64 euro. Ma di Fiat abbiamo parlato ampiamente ieri. Il settore assicurativo di nuovo sotto pressione anche oggi, Fondiaria, Generali, ma non solo, anche Unipol. Assolutamente sì, e peraltro non solo a Piazza Affari ma in tutta Europa. Il sottoindice Eurostoxx 600 ha perso il 4,4%, ha registrato la peggior performance del vecchio continente. C'è una rotazione settoriale, soprattutto dopo le banche gli investitori iniziano a temere che anche i conti delle compagnie assicurative possano essere deludenti. Anche a Piazza Affari praticamente gli analisti stanno puntando l'indice proprio sui conti delle compagnie assicurative. Proprio oggi ad esempio Intermonte ha fatto uno studio anche su Fonsai, temendo non solo per i conti della società che potrebbero soffrire un calo dei premi sia danni che vita, ma peraltro gli analisti hanno rammentato che Fondiaria Sai ha partecipazioni in altre società quotate, ha partecipazioni certo. In Pirelli, Gemina, Mediobanca, MPS, Unicredit, e quindi ovviamente il calo delle partecipazioni poi si riflette anche sulle azioni della stessa Fondiaria Sai. E visto che citavi Unicredit, alla fine oggi la giornata non è stata così negativa per il titolo. Minuti dopo aver parlato con Pietro Ichino, Giuliano Cazzola e Tito Boeri dell'accordo raggiunto ieri per la riforma dei modelli contrattuali senza la CGIL e aver commentato la borsa, ricordo che si fosse appena messo in collegamento, recupero nel finale meno 0,5% grazie a Wall Street, che adesso però è tornata in negativo meno 1,6%. Ci occupiamo adesso di Cina e di materie prime. Una notizia in breve, prima di partire con i nuovi temi, riguarda l'altra notizia importante di questa giornata, il dato sulle vendite al dettaglio nel mese di novembre. Come immaginabile, i consumi in Italia come nel resto d'Europa non vanno benissimo, meno 3% a novembre. L'ANSA titola vendite al dettaglio in picchiata. In realtà, come abbiamo già avuto modo di ricordare altre volte, i consumi di generi alimentari tengono meglio di altri consumi, perché se i cosmetici fanno meno 5, i cellulari meno 4,5, le calzature meno 3,5, l'abbigliamento meno 4, gli elettrodomestici meno 4, i consumi alimentari calano solo, tra virgolette, di un 1,3% rispetto al novembre del 2007, mentre all'interno del settore chi subisce più il colpo sono i negozi, meno 5%, tengono gli ipermercati praticamente invariati e i supermercati fanno un meno 0,8%, gli hard discount un meno 1,4%. Molti di voi ci hanno chiesto di ricordare il caso della mala sanità, praticamente è emerso che nella ASL di Reggio Calabria, commissariata per infiltrazioni mafiose e attualmente gestita l'azienda sanitaria da un generale dei carabinieri, i costi dei servizi offerti si stanno riducendo con cali oltre il 50%. Questo in una ASL che aveva debiti per 500 milioni di euro da sola, la ASL di Reggio Calabria, complimenti, e pagava, nonostante questi debiti, prezzi folli per prodotti e servizi ottenuti palesemente con appalti truccati, quindi con la collusione con l'Andrangheta. Per un pacco di cerotti da 20 euro si era arrivati a pagare 3.500 euro, cerotti d'oro. Poi per servivano sei nuovi camici, ne erano stati ordinati 2.800, alla faccia, diciamo, dei risparmi possibili in una logica anche di federalismo fiscale. E ancora c'è il caso virtuoso di Palermo, perché da quando c'è l'amministratore giudiziario che gestisce la ASL di Palermo, i costi per la regione di alcuni servizi erogati si sono ridotti addirittura del 90%, il costo di una TAC è sceso da 128.000 a 9.000 euro, un ciclo di terapia per tumore alla prostata è sceso da 136 a 8.000 euro. Siccome non immaginiamo che il servizio sia peggiore, tutto il resto era praticamente un furto, non so come altro chiamarlo. Adesso però, prima di arrivare alla Cina, restiamo sulle materie prime. Perché? Perché quest'anno tutte le materie prime hanno prezzi in flessione. Mi riferisco alle materie prime legate all'acciaio e metalli non ferrosi. Ne parliamo perché, tra l'altro, a Brescia, che è la capitale italiana dell'acciaio, Italia è il secondo paese produttore di acciaio in Europa, il decimo al mondo, si sta parlando di acciaio proprio per la terza edizione del Made in Steel. E allora ne parliamo con chi l'ha organizzata anche quest'anno, sia il dottor Emanuele Morandi, presidente di Cider Web. Buonasera. Morandi. Buonasera, dottor Marisoni, buonasera. Come ogni anno facciamo il punto su un settore che non sempre riusciamo a toccare, quello dell'acciaio, ma che vede l'Italia appunto secondo paese produttore in Europa, con un fatturato di circa 35 miliardi di euro l'anno e 40.000 addetti, 100.000 se si va all'indotto. Come vanno i prezzi dell'acciaio? I prezzi dell'acciaio, dopo un picco raggiunto nei mesi di estivi, sono crollati. Siamo passati direttamente da una torrida estate per quanto riguarda i prezzi ad un gelidissimo inverno, senza stagioni intermedie, senza abituarci, senza avere il tempo di abituarci a questo cambio. Ma le mezze stagioni non ci sono più, Morandi? Non sono più le mezze stagioni, bravo Marisoni. Il problema è che non abbiamo potuto adattarci a questo grande cambiamento. I settori, per noi utilizzatori di acciaio, i grandi settori, l'automobilistico, l'edilizia, la meccanica, ha subito delle frenate nell'ordine del 50, del 30, del 50%, che sono delle frenate al di là di ogni previsione anche più nera dal punto di vista congiunturale. Per cui non è più un aspetto solo congiunturale, c'è proprio una crisi che si sarebbe comunque forse innestata di riduzione dei prezzi se c'è innestata anche la crisi derivante dalla finanza, dal mondo bancario, che ha creato sfiducia e un blocco completo di tutti quelli che sono gli acquisti di beni per investimento. Ancora, la frenata più forte come domanda mondiale da che paese è arrivata in generale, o da che area geografica perlomeno? Diciamo che tutto il mondo si è rallentato, anche l'Europa ha frenato, gli Stati Uniti hanno frenato e ha frenato veramente tutto il mondo, per cui non ci sono aree che in questo momento si stanno salvando. E quindi diciamo, però ci aspettiamo che dopo questo momento, dopo forse questo trimestre di rallentamento molto forte, si torni comunque alla normalità. Cioè non è sensato pensare che ci siano settori che abbiano frenato del 50%, per cui qualcosa di meglio comunque a partire dopo il primo trimestre ci potrà essere. Tra l'altro nel 2007 voi avete fatto un anno record a livello mondiale, la produzione di acciaio ha toccato il 1.300.000.000 di tonnellate, grazie anche all'aumento, cioè metà di questo aumento l'ha fatto la Cina, e chiaramente anche la Cina sta frenando, ne parleremo tra un minuto dopo le informazioni per chi è in viaggio. Un'ultima domanda però sui prezzi, oltre che dell'acciaio, mi sembra che siano in calo tutti i prezzi, rame, stagno, piombo, zinco, no? Tra il 50 e il 40%. Acciai, che è qui con me il dottor Pasini per parlare di questo, così do la parola anche al presidente di Federacciai per parlare, glielo passo. Grazie, presidente Pasini, buonasera. buonasera a tutti. Allora, gli altri prezzi, rame, stagno, piombo, zinco, è tutto in calo tra il 60 e il 40%? Sono tutti in calo? I prezzi, dico, dei metalli, alluminio, acciaio, rame, tutti in calo dal 40 al 60%? Sì, ormai l'ultimo periodo è calato anche di più del 40%, si è raggiunto anche il 50% su alcuni prodotti siderurgici, per cui siamo in una fase di grande recessione. Lei conferma però uno spiraglio, diciamo, probabilmente dopo il semestre, da settembre-ottobre in poi? Io sinceramente, guardi, penso che oggi fare delle previsioni a medio termine sia un po' azzardato. Io rimango abbastanza coi piedi per terra e cerco di farle a breve termine. Noi sappiamo che nel primo trimestre di quest'anno dovremo ridurre le produzioni a fronte di una scarsissima domanda, non solo sui mercati nazionali ma anche sui mercati esteri, di circa un terzo. Purtroppo questo vuol dire anche ricorrere a cassa integrazione. Le do un numero tanto per capirci: attualmente la siderurgia italiana fa circa 60.000 dipendenti diretti. Abbiamo fatto una breve analisi come comparto e nei primi tre mesi facilmente chiederemo cassa integrazione per circa 15.000 addetti. Questo le dà la giusta misura e la dimensione di quello che anche la siderurgia, dopo anni brillanti, sta attraversando. Purtroppo questa è la situazione, dobbiamo prenderne atto e io ripeto, non voglio rischiare di fare da un'analisi a medio-lungo, ma preferisco, ripeto, stare con navigare a vista. No, è chiarissimo il suo ragionamento, io non posso che augurare all'intero settore, soprattutto ai 15.000 addetti che potrebbero conoscere la cassa integrazione, in bocca al lupo, non so cos'altro augurare, visto che chiaramente l'acciaio è uno dei settori, i metalli non ferrosi, più sensibili alle dinamiche complessive dell'economia, visto che si usa per le costruzioni oltre che per le quattro ruote, e quindi finché non riparte l'economia globale è difficile che riparta l'acciaio. I prezzi erano molto alti, ha ragione chi lo scrive, nel 2007, adesso forse sono crollati un po' troppo. Grazie sia al presidente Federacciai Pasini che al presidente di Siderweb Morandi. Ultima parte del programma, torniamo a occuparci di Cina, l'abbiamo raccontata la crisi anche in Cina con brevi notizie, in realtà i numeri, come dicevo, sono impressionanti. Perché? Perché addirittura la crisi o il rallentamento economico minaccerebbe in Cina la pace sociale. Quali sono i numeri della Cina? Beh, il PIL per la prima volta l'anno scorso non è riuscito a crescere sopra il 10%. In Cina un'economia che cresce meno del 6-7% è considerata a rischio per la stabilità sociale. Da noi, voglio dire, sarebbe un record. Tra l'altro sono 15 milioni di cinesi che ogni anno entrano nel mercato del lavoro, però per la prima volta quest'anno 110 milioni di cinesi sono tornati dalla città alla campagna. In questi anni sono stati, diciamo, 150 milioni le persone che dalla campagna sono mosse verso la città, 10 milioni sono tornati in campagna. E tra l'altro, questo perché non c'erano più posti di lavoro. Si attende di capire cosa succederà dopo la fine del capodanno lunare, quindi verso inizio febbraio, quando le fabbriche chiuse per festività dovrebbero riaprire. Per ora si segnalano circa 67.000 piccole e medie imprese che hanno chiuso nei primi sei mesi del 2008. Nei Guangdong, che è la regione più conosciuta dagli italiani, sarebbero stati chiusi nel 2008 100.000 stabilimenti. Ci colleghiamo allora con Shanghai, dove c'è il corrispondente Sole 24 Ore, Luca Vinciguerra. Luca, buonanotte, vista l'ora da te. Sì, buonanotte a tutti gli ascoltatori del 24. Allora, mentre va avanti la polemica tra il nuovo ministro del tesoro americano, Geithner, che ha detto la Cina sta manipolando a suo favore la valuta, vorrei capire cos'è questa soglia del 6-7% considerata critica per la stabilità sociale, cioè se il PIL cresce meno del 6-7%. Era quello che stavi spiegando poco fa tu, Diciamo questa soglia prima era dell'8, adesso gli economisti vicini al governo sostengono che si sia abbassata al 7, è la soglia al di sotto della quale la creazione di posti di lavoro non è sufficiente ad assorbire gli ingressi annuali appunto sul mercato del lavoro. Giusto per dare un'idea, secondo alcune stime da qui a fine giugno, cioè nei primi 6 mesi dell'anno, ci saranno circa 6 milioni di nuovi laureati che entreranno sul mercato del lavoro. Nello stesso periodo, sempre secondo le stesse stime, circa 10 milioni di lavoratori potranno essere espulsi dal circuito produttivo. Quindi questo ovviamente quando 10 si parla milioni di nuovi della Cina si parla di numeri enormi. Questi numeri enormi poi giustificano tassi di crescita di quel tipo, insomma, ecco, questo ci fa dire che sotto il 7% è una sorta di recessione. Ecco Luca, i motivi, ora due ipotesi: o la Cina si è accorta che la sua manifattura produceva beni di massa, per carità, ma con basso valore aggiunto, e quindi hanno risentito molto del calo dei consumi, o è semplicemente anch'essa vittima di una crisi generale. Cioè, i cinesi, che spiegazione il governo, che spiegazione si sta dando? Ma guarda, la spiegazione alla fine è molto semplice e smentisce quella chimera, se vogliamo, del fatto che la Cina in qualche modo potesse fare una specie di decoupling, di andare avanti per conto suo e coi consumi interni e quant'altro. Oggi il mercato interno cinese non è in grado di supportare da solo l'economia nazionale. Prova ne è che appunto appena la domanda mondiale è crollata, l'export cinese è crollato di conseguenza, e con il crollo delle esportazioni migliaia e migliaia di aziende che producevano beni di largo consumo, a basso ma anche a valore aggiunto, anche medio, sono andate in crisi. Ovviamente quelle a essere state completamente cancellate, cioè quelle che chiudono i battenti, che nel giro di 2-3 mesi hanno chiuso i battenti e sono state costrette a licenziare i lavoratori, sono quelle ovviamente più deboli della catena, cioè quelle che lavoravano su margini ridottissimi, appena sono saltati gli ordini internazionali e sono stati costretti a chiudere immediatamente. E sono le aziende che poi io ho visitato e di cui ho dato conto in una serie di reportage che abbiamo fatto con Sole 24 Ore appunto dal Guangdong, già a partire dalla scorsa estate. Diciamo le aziende solide e le aziende che producono elettronica, che hanno un mercato solido, ancora ovviamente tengono botta. Quelle più piccole, che fanno parte, se vogliamo, dei grossi indotti industriali nel Guangdong e nel delta del fiume dello Yangtze River intorno a Shanghai, sono quelle che vanno in difficoltà. Il problema è che sono numeri enormi. Io dalla stazione di Shenzhen nel Guangdong ho visto con i miei occhi migliaia e migliaia di operai tornarsene a casa, ma questo addirittura prima di Natale. In questi giorni addirittura le stazioni ferroviarie, comprese quella di Shanghai, sono state prese d'assalto, al punto che il governo ha dovuto intervenire richiamando la gente alla calma e promettendo che avrebbe messo in servizio treni straordinari per riportare tutti a casa. Per riportarli in il fatto che molti di questi nei loro villaggi, che non sono, certo, che sono, da dire, che sono all'interno della Cina. Il problema è che per molti di questi operai, di questi lavoratori, è un viaggio senza ritorno, no? E tra l'altro, dopo il Capodanno cinese non torneranno nelle fabbriche come facevano di solito. Tra l'altro il reddito medio nelle campagne è un 17° di quello che è nelle città. Un'ultima domanda, Luca, tu ci hai chiarito che il problema della Cina è che da quando si è aperta al mondo non è un'economia così autoreferenziale, ma soprattutto troppo legata all'export, se ho ben capito la domanda e la risposta. Ci sono casi incredibili: la Smart Union, che fornisce la Barbie e altri giochi al colosso americano Mattel, i manager hanno chiuso improvvisamente 2 stabilimenti nel Guangdong e sono scappati. I 6.500 lavoratori si sono messi a protestare, hanno avuto scontri con la polizia, sono dovute intervenire le autorità locali per raccogliere 3 milioni di euro per pagare i salari arretrati. Questo potrebbe portare la Cina a, come teme l'America, in maniera scorretta a lavorare sulla valuta, cioè ad abbassare il livello, manipolare lo yuan, o alla fine la soluzione sarà quella di sviluppare anche dei consumi interni? Vedi, sono due questioni che vanno di pari passo, perché sviluppare dei consumi interni è un processo che richiederà anni, decenni. Oggi il cinese, anche il cinese che ha raggiunto un livello di vita medio, uno standard di vita medio, ha una propensione al consumo molto bassa. Bisognerà aspettare che le persone nate negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90 diventino grandi e entrino sul mercato dei consumi per vedere cambiare il sistema dei consumi cinesi. Il cinese è un grosso consumatore risparmiatore come eravamo noi 50 anni fa, questo è un dato di fatto. L'altro dato di fatto è che la Cina appunto si confida troppo sulle esportazioni, e questo è una cosa che il governo, è un punto di debolezza che il governo ha compreso da tempo, infatti vuole cercare di pilotarla sempre di più sui consumi domestici, ma appunto è un fenomeno che richiederà del tempo. La manipolazione dello yuan, chiamarla manipolazione secondo me è scorretto, nel senso che lo yuan è una valuta inconvertibile e in quanto tale non è soggetta alle forze di mercato, questo è un fatto, voglio dire, implicito. Se una valuta non è convertibile, è governata da altre forze, in questo caso anche il controllo del governo, questo è chiaro, come era il rublo una volta e come sono state molte valute nella loro storia prima di diventare finalmente convertibili. Quindi secondo me queste accuse sono del tutto, devo dire, mi allineo con questo, con quello che dice il governo cinese, del tutto infondate, è un dato di fatto. E un altro dato di fatto, secondo me, è mio modestissimo parere, è che lo yuan comunque, appunto, che i cinesi faranno vecchia da mercante, perché appunto le esportazioni stanno andando di male in peggio, e quindi non vedremo sicuramente una rivalutazione dello yuan nel 2009. C'era chi lo dava a quota 6, ma ormai ha iniziato a frenare a quota 6, chissà quando mai ci arriverà. Nel lungo termine... Non ci speravamo proprio. Nel lungo termine questa rivalutazione ci sarà. Ma adesso la tenderei ad escluderla. Guarda, penso di essere abbastanza d'accordo con te, Luca, che difficilmente la Cina andrà a rivalutare la sua valuta in un momento di così estrema difficoltà. Il numero di scioperi, manifestazioni e scontri con la polizia nel 2008 è aumentato del 90%, 85.000 episodi, e il governo cinese ha lanciato un pacchetto di stimoli all'economia che vale 585 miliardi di dollari. Grazie a Luca Vinciguerra in collegamento con noi da Shanghai, e buonanotte veramente. Un ringraziamento a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e Gaia Romani per l'assistenza al programma. Da Sebastiano Berisoni a voi tutti in ascolto l'auguro di un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.